Capitolo 9. Brano di una lettera a Gilbert. Domani sera sono invitata a cena in casa di una persona importante. Oh, Gilbert, so che non mi crederai, ma si chiama Tom Gallon. Signorina Minerva Tom Gallon. Direi che troppi romanzi di Dickens mi hanno suggestionata. Tesoro, non sei contento di chiamarti Blythe? Non potrei mai sposarti se tu ti chiamassi Tom Gallon. Pensa un po', Anne Tom Gallon. No, è impensabile. A Summerside un invito a Tom Gallon House è considerato un alto onore. Già, si chiama così, Casa Tom Gallon. Bandite qui le leziosità di Helms, Chestnuts o Crofts. Mi risulta che un tempo erano loro la famiglia reale. Al confronto i Pringle sono dei funghi. Ora è rimasta soltanto la signorina Minerva, unica sopravvissuta di 6 generazioni di Tom Gallon. Vive da sola in un'enorme casa di Queen Street, con grandi camini, imposte verdi e una vetrata colorata. Unica qui in città in una residenza privata. Ci starebbero 4 famiglie. Invece la signorina Minerva ci vive sola con una cuoca e una cameriera. È ben tenuta, ma vedendola da fuori mi dà l'impressione di un posto dimenticato dalla vita. La signorina Minerva non esce quasi mai se non per recarsi alla chiesa anglicana e io l'ho conosciuta qualche settimana fa quando è venuta a una riunione del consiglio d'istituto per donare ufficialmente alla scuola la preziosa biblioteca del padre. La figura di Minerva Tom Gallon risponde al nome. È alta e magra, con un viso lungo e affilato, un naso lungo e affilato e una bocca larga e affilata. Non è certo il ritratto di una gran bellezza, ma la signorina Minerva ha un suo fascino, solenne e aristocratico, ed è sempre molto elegante, anche se il suo stile è un po' antiquato. Rebecca Dieu dice che da giovane era uno splendore, e i suoi grandi occhi neri conservano ancora un certo ardore e una scura lucentezza. Non le manca l'uso della favella, e non si è tirata indietro quando si è trattato di fare un discorso di circostanza. La signorina Minerva è stata particolarmente cortese con me e ieri ho ricevuto un breve biglietto con cui mi invita a cena. Quando l'ho letto, Rebecca Dieu ha sgranato gli occhi come se fossi stata invitata a Buckingham Palace. È un grande onore essere ricevuti a Tom Gallon House, ha detto con tono reverenziale. La signorina Minerva non ha mai invitato gli altri presidi, per quanto io sappia. Però erano uomini e forse non sarebbe stato opportuno. Beh, signorina Shirley, spero solo che non la stenda a furia di chiacchiere. Tutti i Tom Gallon sono sempre stati attaccabottoni, tremendi. E sempre in prima fila volevano essere. Si dice che la signorina Minerva faccia una vita ritirata perché ora che è vecchia non può più primeggiare come un tempo e non vuole essere seconda a nessuno. Come si vestirà, signorina Shirley? Le consiglio l'abito di seta color panna con il bolero di velluto nero. Fa così elegante. Non fa troppo elegante per una normale cena? Ho detto io. Secondo me alla signorina Minerva piacerebbe. Ai Tom Gallon è sempre piaciuto avere ospiti in gingheri. Si dice che il nonno della signorina Minerva una volta abbia chiuso la porta in faccia a una signora invitata a un ballo perché non si era presentata con l'abito più bello. Così le disse che non aveva un guardaroba all'altezza dei Tom Gallon. Comunque penso che indosserò l'abito di voile verde e i fantasmi del Tom Gallon dovranno accontentarsi. Caro Gilbert, voglio confessarti quel che ho fatto la settimana scorsa. Penserai che sono la solita impicciona, ma dovevo assolutamente fare qualcosa. L'anno prossimo non sarò più a Summerside e non sopporto l'idea di lasciare la piccola Elizabeth alla mercé di quelle due vecchie insensibili che diventano sempre più acide e arcigne con il passare del tempo. Che adolescenza avrà mai con loro in quella casa triste? Non molto tempo fa mi ha chiesto con tono malinconico: chissà com'è una nonna che non fa paura. E allora sai che cosa ho fatto? Ho scritto a suo padre. Sapevo soltanto che sta a Parigi, ma Rebecca Dieu ricordava ancora il nome della ditta che gli aveva affidato la filiale francese, così ho tentato la sorte e gli ho indirizzato la lettera presso la ditta. Ho cercato di essere diplomatica, ma gli ho detto chiaro e tondo che dovrebbe prendere Elizabeth con sé. Gli ho detto che lei lo aspetta e lo sogna sempre, che la signora Campbell è troppo rigida e severa. Forse la cosa non avrà seguito, ma se non avessi scritto il rimorso mi avrebbe perseguitata. Mi sono decisa al gran passo quando Elizabeth mi ha detto tutta seria che aveva scritto una lettera a Dio chiedendogli di riportarle suo padre e di far sì che le volesse bene. Ha detto che tornando a casa da scuola si era fermata in un prato e l'aveva letta alzando lo sguardo al cielo. Sapevo già di questa stranezza perché la signorina Prouty aveva visto la scena e me ne aveva parlato il giorno dopo quando era venuta a cucire per le vedove. Quella Elizabeth stava proprio diventando un tipo originale a sentir lei, con quei discorsi fatti al cielo. Ho chiesto spiegazioni a Elizabeth e lei mi ha raccontato tutto. Pensavo che Dio avrebbe dato più ascolto a una lettera che a una preghiera, mi ha detto. È tanto che prego, ma chissà quante preghiere riceve. Quella sera ho scritto a suo padre. Ah, prima di salutarti devo raccontarti di Dusty Miller. Qualche tempo fa, zia Kate mi disse che doveva proprio trovargli un'altra casa, perché Rebecca Dio continuava a lamentarsi e doveva essere proprio al limite della sopportazione. Una sera della settimana scorsa tornai a casa da scuola e non trovai più Dusty Miller. Zia Chetty mi informò che l'avevano dato alla signora Edmonds, che vive all'altro capo di Summerside. Ci restai male, perché andavo molto d'accordo con Dusty Miller, ma almeno, pensai, Rebecca Dio sarà contenta. Quel giorno non c'era, perché era andata in campagna ad aiutare una parente a intrecciare tappeti. Tornò all'imbrunire e nessuno le disse niente, ma quando andò sul retro per chiamare Dusty Miller in casa, zia Kate disse tranquillamente: «È inutile che chiami Dusty Miller, Rebecca, non c'è, gliel'abbiamo trovata un'altra casa, così non avrai più seccature». Se Rebecca Dew potesse impallidire, beh, l'avrebbe fatto. «Non c'è? Gli avete trovato un'altra casa? Ma santo cielo, non è casa sua questa?» «L'abbiamo dato alla signora Edmonds. Si sente sola dopo il matrimonio della figlia e forse un buon gatto potrà farle compagnia». Rebecca Dio rientrò e chiuse la porta. Era sconvolta. «Questa è davvero l'ultima goccia», disse. E parlava sul serio. «Non ho mai visto Rebecca Dew lanciare tali lampi di furore dagli occhi. Me ne andrò alla fine del mese, signora McCumber, e anche prima se le sta bene». «Ma Rebecca», disse zia Kate sconcertata, «non capisco, non hai mai sopportato Dusty Miller. Ancora la settimana scorsa dicevi...» «Brava», disse Rebecca con ferocia, «mi rinfacci tutto. Si guardi bene dal rispettare i miei sentimenti. Quel povero gatto, l'ho curato, viziato, mi sono alzata di notte per farlo rientrare, e ora me l'avete fatto sparire di nascosto, senza degnarvi di chiedermi un parere. E poi l'avete dato a Jane Edmonds, che un po' di fegato... A quella povera bestia non glielo comprerebbe mai. Ah, povera bestia. Nemmeno se ci facesse dietro una malattia avrebbe un po' di fegato da mangiare. E in cucina c'era solo lui a farmi compagnia. Ma Rebecca, hai sempre... Oh, continui, continui. Badi bene di non lasciarmi aprire bocca, signora McCumber. Quel gatto me lo sono cresciuto da quando era piccolo così. Ho cercato di farlo stare bene, di fisico e di morale, e a che pro? Per dare a Jane Edmonds la compagnia di un gatto educato? Beh, vedremo se la sera lei starà fuori al freddo per delle ore a chiamare il gatto, per non lasciarlo all'addiaccio». Ne dubito davvero. Beh, signora McCumber, spero solo che la coscienza non le rimorda quando andremo a 10 sotto 0. Io certo non chiuderò occhio, ma naturalmente a nessuno gliene importa un fico secco. Rebecca, se volessi... Signora McCumber, io non sono né un verme né uno zerbino. Beh, che questo mi serva da lezione, ne farò tesoro. Mai più mi lascerò invischiare dall'affetto per un animale, qualunque esso sia. Almeno aveste agito apertamente alla luce del sole, ma alle mie spalle, con l'inganno. È una vigliaccheria inaudita. D'altra parte, chi sono io perché si debba tenere conto dei miei sentimenti? Rebecca, la interruppe zia Kate, la disperata. Se è Dusty Miller che vuoi, possiamo riprendertelo. E allora perché non l'avete detto prima? Chiese Rebecca Dew. Ma ho i miei dubbi. Ormai Jane Edmonds gli avrà messo le grinfie addosso. Pensate che lo restituirà? Credo di sì, disse zia Kate con il solito tono da gelatina. E se riprenderemo il gatto, tu non andrai via, vero Rebecca? Può darsi che ci ripensi, disse Rebecca Dew, con il tono di chi fa una straordinaria concessione. Il giorno dopo, zia Chetty riportò a casa Dusty Miller in un cestino coperto. Quando Rebecca lo ritirò e si chiuse alle spalle la porta della cucina, mi parve di cogliere un'occhiata d'intesa tra le vedove. che non fosse un piano escogitato da loro e realizzato con l'aiuto e la complicità di Jane Edmonds. Rebecca non si è più lamentata di Dusty Miller e nel suo richiamo serale risuona una squillante nota di trionfo. Sembra voler proclamare a Summerside il felice rientro a casa di Dusty Miller e l'ennesima vittoria sulle vedove di Rebecca Dew. Capitolo 10. Brano di una lettera a Gilbert. Era una buia e ventosa sera di marzo, con il cielo percorso da una ridda di nuvole frettolose, quando Anna salì le tre brevi rampe di larghi e bassi scalini, fiancheggiate da vasi di pietra e immobili leoni di pietra, che conducevano all'imponente portone di Tom Gallon House. Di solito, quando vi passava davanti dopo il tramonto, era tetra e buia e solo un debole chiarore occhieggiava a un paio di finestre, ma ora rifulgeva di luce ed erano state illuminate anche le due ali laterali, come se la signorina Minerva stesse per ricevere la città al completo. Anne provò imbarazzo per quella luminaria in suo onore. Quasi si pentì di non aver indossato l'abito di seta color panna, ma quello di voile verde le stava molto bene e dovette pensarlo anche la signorina Minerva, che l'accolse nell'ingresso con modi cordiali. La signorina Minerva, invece, sembrava una regina col suo abito di velluto nero, il diadema puntato tra le bande di capelli grigio ferro e la massiccia spilla con cameo a cui faceva corona una treccia di capelli di qualche Tom Gallon defunto. Era un abbigliamento leggermente fuori moda, ma il portamento nobile della signorina Minerva lo rendeva regale ed eterno. «Benvenuta a Tom Gallon House, mia cara», disse tendendo ad Anna una mano ossuta carica di anelli. «Sono molto lieta che lei sia mia ospite. Tom Gallon House era la patria d'elezione della bellezza e della gioventù nei tempi andati. Davamo molti ricevimenti, ospitavamo tutte le celebrità di passaggio», disse la signorina Minerva, guidando Anne verso il grande salone su una passatoia di stinto velluto rosso. «Ma quei tempi sono finiti. Io ricevo pochissimo, sono l'ultima dei Tom Gallon. È forse meglio così. La mia famiglia, mia cara, vive sotto una maledizione». Il tono di orrore che la signorina Minerva impresse a queste parole riuscì quasi a far rabbrividire Anne. «La maledizione dei Tom Gallon! Un titolo da romanzo! Cadendo da questa scala si ruppe il collo il mio bisnonno Tom Gallon, la sera del pranzo di gala per l'inaugurazione della casa nuova. Questa casa è stata consacrata con sangue umano. Ecco dove è accaduto». La signorina Minerva indicò con un gesto plateale del dito bianco e ossuto una pelle di tigre stesa nell'ingresso, suscitando nella mente di Anne l'immagine del Tom Gallon moribondo giacente al suolo. Non sapeva proprio cosa dire, così si limitò a un insulso «Oh!». La signorina Minerva la precedette lungo una galleria, fitta di ritratti e fotografie di bellezze svanite, illuminata a un'estremità dalla famosa vetrata colorata. Quindi la introdusse in una maestosa camera per ospiti di ampie proporzioni. L'altro letto di noce, dall'imponente testata, era coperto da una trapunta di seta di tale magnificenza che ad Anne parve un delitto posarvi cappello e cappotto. «Ha dei bellissimi capelli, mia cara», disse la signorina Minerva con ammirazione. «Mi sono sempre piaciuti i capelli rossi. Li aveva anche zia Lidia. Era l'unica dei Tom Gallon ad avere i capelli rossi. Una sera se li stava spazzolando nella camera nord, quando la candela vi appiccò fuoco e lei si precipitò urlando nella galleria, avvolta dalle fiamme. Sempre la maledizione, mia cara, la nostra maledizione. Ma no, non morì bruciata, ma restò sfigurata. Era bellissima Evanesia. Non uscì più di casa fino al giorno della morte. E lasciò detto che chiudessero subito la bara perché nessuno potesse vedere il suo volto devastato. Vuole sedersi per togliersi le soprascarpe, mia cara? Questa sedia è molto comoda. Mia sorella ci morì d'infarto. Era vedova e tornò a vivere qui dopo la morte del marito. La figlia piccola restò ustionata giù in cucina da una pentola di acqua bollente. Non è una morte tragica per un bambino? Oh, che... Ma almeno sappiamo com'è morta. La zia Eliza, in effetti sarebbe stata mia ziastra se fosse vissuta, sparì all'età di 6 anni. Non se ne seppe più nulla. Ma certamente fu compiuta ogni possibile ricerca, ma senza risultato. Si diceva che sua madre, la seconda moglie del nonno, fosse stata molto crudele con una nipote del nonno che era rimasta orfana. Era stata levata qui. In una calda giornata d'estate, per punizione, la chiuse nel ripostiglio in cima alle scale e quando andò ad aprirle era bella e morta. Secondo alcuni fu castigata con la scomparsa della figlia. Per me era solo la nostra maledizione. Chi mise? Oh, mia cara, vedo che lei ha il collo del piede alto. Un tempo anche il collo del mio piede trovava degli ammiratori. Dicevano che sotto poteva scorrerci un ruscello. È un indice di aristocrazia. La signorina Minerva sollevò con naturalezza l'orlo della gonna di velluto, rivelando un piede indubbiamente bello. E davvero, gradirebbe visitare la casa prima di cena, mia cara? Una volta era il vanto di Summerside. Ora è fuori moda, lo so, ma forse c'è ancora qualcosa di interessante. La spada appesa a capo della scala apparteneva a un mio trisavolo. Era un ufficiale dell'esercito inglese, sa? E ricevette una concessione di terreno sull'isola del principe Edoardo in cambio dei servizi resi. Lui non visse mai qui, ma ci visse per qualche settimana la mia trisavola. Non sopravvisse a lungo dopo la morte tragica del figlio. Restò sempre debole di cuore e quando il figlio minore, il mio prozio James, si sparò in cantina, lei morì di dolore. Lo zio James si uccise perché era stato respinto da una ragazza che voleva sposare. Lei era bellissima, troppo bella per essere anche buona, a mio vedere. La bellezza è una grande tentazione. Credo che le si debbano attribuire molti cuori infranti, oltre a quello del mio povero prozio. La signorina Minerva fu una guida inesorabile per la visita dell'enorme casa, ricca di sale e saloni. Salone da ballo, serra, sala del biliardo, 3 sale di soggiorno, sala per la prima colazione. Un numero infinito di camere da letto e una sterminata soffitta. Erano tutte fastose e tristi. Quelli erano zio Ronald e zio Reuben, disse la signorina Minerva indicando 2 individui che si guardavano in cagnesco ai 2 lati di un caminetto. Erano gemelli e si odiavano ferocemente fin dalla nascita. I loro litigi si sentivano per tutta la casa. La madre ne aveva fatto una malattia. Durante l'ultimo litigio avvenuto in questa stanza, durante un temporale, Reuben fu ucciso da un fulmine. Ronald non si riprese più. Da quel giorno restò come spiritato. Sua moglie, aggiunse la signorina Minerva in vena di ricordi, ingoiò l'anello nuziale. Che strano! Ronald la giudicò una grave disattenzione e non volle porvi rimedio, forse somministrando subito un emetico, e invece non si trovò più. Quel fatto le rovinò la vita. Non le pareva nemmeno di essere sposata senza l'anello nuziale. Che bella! Oh sì, era zia Emilia, zia di acquisto per la precisione. Moglie di zio Alexander, era famosa per la sua aria spirituale, ma avvelenò il marito con un piatto di funghi, non commestibili, naturalmente. Abbiamo sempre finto di credere a un incidente perché non è simpatico avere un delitto in famiglia, sa? Ma sapevamo tutti la verità. Naturalmente lei l'aveva sposato controvoglia. Era giovane e allegra e lui molto più vecchio di lei. Dicembre e maggio, mia cara. Però questo non giustifica i funghi velenosi, certo. Si è ammalata di tisi poco dopo. Sono sepolti insieme a Charlottetown. Tutti i Tom Gallon sono sepolti a Charlottetown. Ah, questa era zia Louise. Beve il laudano. Il dottore le fece la lavanda gastrica e la salvò, ma da allora non siamo più riusciti a fidarci di lei. È stato quasi un sollievo quando è morta, di una rispettabile polmonite. A dire la verità, qualcuno di noi non se la sentiva di condannarla. Vede, mia cara, il marito l'aveva sculacciata. Sculacciata? Esattamente. Ci sono delle cose che un vero gentiluomo non dovrebbe mai fare, e una di queste è sculacciare la moglie. Piuttosto tramortirla con uno schiaffone, ma sculacciarla mai e poi mai. Ho ancora da vederlo, disse la signorina Minerva, ergendosi con orgoglio, l'uomo che oserebbe sculacciare me. Anche Anne sarebbe stata curiosa di vederlo. Si rese conto che dopo tutto la fantasia ha un limite. Nemmeno sforzandosi riusciva a immaginare un marito capace di sculacciare la signorina Minerva Tom Gallon. Questa è la camera dove bisticciarono il mio povero fratello Arthur e la moglie, la sera che la portò a casa dopo le 9. Lei prese la porta e non si vide più. E nessuno seppe mai perché. Era tanto bella e maestosa che la chiamavamo la regina. C'è chi dice che lo sposò perché non voleva deluderlo con un rifiuto e poi si pentì quando era troppo tardi. È stata una rovina per il mio povero fratello. Si mise a fare il commesso viaggiatore. Nessuno dei Tom Gallon, disse la signorina Minerva con enfasi tragica, aveva mai fatto il commesso viaggiatore. Ah, questo è il salone da ballo. Ora naturalmente non si usa più, ma quei balli ce ne sono stati a bizzeffe. I balli dei Tom Gallon erano famosi, ci venivano da tutta l'isola. Quel lampadario è costato a mio padre 500 dollari. Mia prozia Patience una sera morì durante un ballo, proprio laggiù. Aveva avuto una brutta delusione d'amore. Non so perché le ragazze perdono la testa per gli uomini. Gli uomini, disse la signorina Minerva, osservando una fotografia del padre di cui spiccavano gli ispidi favoriti e il naso aquilino. Mi sono sempre sembrati creature di poco conto. Narra una leggenda di famiglia che ai tempi del nonno, mentre lui e la nonna erano in viaggio e i giovani diedero un ballo un sabato sera e fecero le ore piccole, e allora la signorina Minerva assunse un tono di voce cavernoso che fece venire ad Anna la pelle d'oca, entrò Satana. C'è uno strano segno sul pavimento nel vano di quella finestra e ha tutta l'aria di un'impronta carbonizzata. Naturalmente non è che ci creda davvero. La signorina Minerva sospirò, come dispiacendosi di non poterci credere.